Il motivo per cui ho scelto questo testo è perché mi dà e mi sta dando ancora la possibilità di affrontare tanti temi che mi stanno particolarmente a cuore. E sicuramente uno di questi è il teatro. Quindi Genè già nel testo inserisce tutta una serie di cambi di ruolo, di travestimenti, quindi come dire il tema del teatro è già insito all'interno del testo. Però nel nostro spettacolo questo tema è maggiormente sottolineato, evidenziato da una scelta che è un ulteriore piano che è inserito all'interno dello spettacolo, dove Beatrice Vecchione e Matilde Vigna all'interno nell'arco, diciamo, dello spettacolo interrompono proprio in dei momenti lo spettacolo, mostrando delle frasi, degli appunti di regia molto brevi, un po' simili appunto a quelle piccole frasi che uno appunta quando legge un libro sulla pagina, che sono: proteggimi da ciò che voglio, il deserto del reale e saremo libere, che sono tre frasi che scandiscono tre momenti del lavoro, che sono dei nodi comunque drammaturgici. Il primo: proteggimi da ciò che voglio, perché queste due serve appunto desiderano essere qualcosa che non sono e qualcosa che non saranno mai. Questo le porterà comunque alla morte o comunque alla tragedia, una di loro si suiciderà e l'altra comunque sarà disperata per questo. Però all'interno appunto del teatro, dell'irrealtà e della fantasia trovano la loro vitalità, cioè nel gioco dei ruoli, del teatro, della commedia riescono a essere vive e vitali. Nel deserto del reale, perché quando ripiombano all'interno della loro vita invece trovano un deserto, quindi non c'è niente, c'è il nulla. E saremo liberi è l'ultimo atto dello spettacolo, che è una frase che dice Claire prima di suicidarsi, che dice alla sorella: tu mi porterai dentro di te, saremo belle, saremo liberi e saremo felici. Un po' come per dire, dal mio punto di vista, che in questo mondo in cui loro vivono, un mondo in cui i padroni non si possono più uccidere, l'unica alternativa è la morte. Quindi questo è un po' il pensiero che passa. Quindi un tema è sicuramente il teatro. L'altro tema è il capitalismo, perché se all'inizio abbiamo come dire un iperreale dove ci sono loro che si presentano come attrici, perché ci sono tantissimi livelli, cioè Claire e Solange, Solange che fa Claire e Claire che fa Madame, Claire e Solange da sole, Claire e Solange con Madame, quindi loro hanno già, devo dire, c'è un livello di complessità molto alto. Quindi così ne abbiamo aggiunto un altro, che è questo delle attrici, dove loro sono nell'iperreale. Anche la scenografia, Paola Villani che ha curato le scenografie, e gli ho chiesto di lavorare in questa direzione. Quindi all'inizio dello spettacolo ci sono dei case teatrali, cioè siamo su un palcoscenico, ci sono solo dei case teatrali con una luce di servizio. Questi oggetti però poi nell'arco dello spettacolo si trasformeranno, insomma diventeranno, poi a un certo punto con l'entrata appunto della signora interpretata da Eva Robbins, diventeranno una magnifica vetrina, cabina armadio, diciamo simbolo un po' per me appunto del capitalismo, vestiti, gioielli, scarpe, che sono tutti oggetti del desiderio che queste serve desiderano. Quindi loro desiderano questi oggetti, desiderano il potere, desiderano essere la signora, la odiano e la amano al tempo stesso. E quindi questa è sicuramente un'altra riflessione importante. La terza riflessione è quella sulla disparità sociale. C'è una forte disparità sociale, qui c'è una piccola e brevissima nota mia autobiografica. Io da quando sono molto piccola, mia madre ha lavorato tutta la vita da quando era ragazzina nelle case dei ricchissimi, bulgari, insomma questi ricchissimi. Quindi dai suoi racconti ho sempre vissuto un po' questo rapporto di forza, no? Nella classe sociale, nella differenza economica. E mi sono resa conto, osservandola e poi rileggendo appunto il testo delle serve, in questo secondo me è simile, che a volte noi introiettiamo, così come introiettiamo spesso il patriarcato, introiettiamo dentro di noi questa disuguaglianza sociale, che non siamo neanche più in grado di ribellarci, non siamo più in grado di fare la rivoluzione. Infatti queste due serve la rivoluzione la fanno solo dentro la loro fantasia. C'è un monologo bellissimo appunto che Solange fa a un certo punto nello spettacolo, in cui immagina questa rivolta dei maggiordomi, le rivolte dei camerieri, ma è pura immaginazione. Cioè loro non compiono un atto rivoluzionario nella realtà, lo compiono solo nella loro fantasia. E l'altro tema è il potere, l'ultimo, per me importante, è un tema che ho indagato tante e tantissime volte nei miei, è molto presente nei miei spettacoli e nel mio percorso artistico, è il potere, perché loro desiderano il potere, loro vogliono il potere rispetto all'altra sorella, loro vogliono il potere che ha la signora, come se fosse un po' l'unico modello che gli viene presentato, un modello che quindi loro cercano di imitare, di incarnare, quindi quello è un po' il modello, il potere è anche legato al genere. Eva Robbins nel ruolo appunto della signora, abbiamo lavorato sulla signora e il signore. Eva Robbins è sia il signore che la signora, è sia Messie che Madame, lei comunque incarna entrambi gli aspetti, questo signore di cui si parla che non si vede mai all'interno del testo, e quindi lei è intanto, cioè ha un'energia appunto femminile e maschile al tempo stesso. Questo perché? Perché il potere va al di là del genere, puoi nascere uomo, puoi nascere donna, ma il punto, il potere è un modo di pensare, un modo di agire nella realtà. E quindi noi abbiamo lavorato anche con Eva su un personaggio anche di una rappresentazione del femminile che va un po' dalla Hollywood, diciamo, degli anni 40, quindi ci siamo, abbiamo fatto un lavoro sulle fotografie, sui film, fino ai giorni nostri, fino diciamo a una signora contemporanea, quindi un femminile anche molto costruito su una certa gestualità, un femminile molto, molto, sì, molto costruito, a cui poi queste serve in qualche modo aspirano. E io provo molta, molta tenerezza per queste due serve, che ho scelto volutamente due attrici giovani per questo, perché secondo me è più drammatico il fatto che siano giovani, cioè due ragazze, due serve giovani che cercano di essere qualcosa che non sono e che non saranno mai, e quindi spostano il loro desiderio all'esterno verso un modello che è indotto dalla società, è indotto dall'esterno, non è il loro, e questo spostamento le porta inevitabilmente alla tragedia.